Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo sempre noi di 451 Intersezioni che siamo ritornati nel nostro spazio consueto dalle 20 alle 21 sulle frequenze di questa magnifica radio. 451 Intersezioni, vi ricordo anche il nostro blog, no blog, per poter avere ulteriori informazioni sulla trasmissione, dunque anche poter ascoltare o riascoltare o scaricare in podcast le trasmissioni passate, sempre 451frammentisonori.noblogs.org. Troverete sia le puntate di 451 Intersezioni, che va in onda sempre ogni lunedì dalle 20 alle 21, e anche di 451 Frammenti Sonori, che va in onda sempre su Radio Città Fujiko ogni mercoledì dalle 24 alle 2 circa. Bene, stasera partiamo con una puntata che richiama gli anni 70, che richiama soprattutto la sperimentazione musicale in Italia. Il titolo di questa trasmissione di stasera è Italia Minimale 70, Utopie Minimaliste, particelle di minimalismo in Italia negli anni 70. Ovviamente in una puntata di un'ora non si può essere esaustivi rispetto a un calderone di moltissimi autori, moltissimi musicisti. Uno dei più famosi e più conosciuti sicuramente è stato ed è Franco Battiato, che ha iniziato la sua, diciamo, il suo percorso musicale proprio nella sperimentazione minimalista negli anni 70, poi attraversando vari percorsi più o meno buoni, per molti anni anche abbastanza cattivi, ma anche facendo uscire, come in questi ultimi anni, anche qualche disco interessante. Ma sicuramente gli album più importanti nell'ambito delle avanguardie, della sperimentazione e anche della sua esperienza minimalista sono quelli, i primi album, e ovviamente quelli che riguardano gli anni 70. Noi stasera affronteremo alcuni autori, chiaramente non tutti quelli che potrebbero attraversare e che hanno attraversato gli anni 70 nella sperimentazione del minimalismo, e apriamo con un grande compositore degli anni 70, Roberto Cacciapaglia, autore anche abbastanza conosciuto, continua a fare musica, continua ancora a girare, anche a fare concerti. Qualche anno fa è stato proprio qua a Bologna, ma sinceramente da molti anni, insomma, diciamo che dire che si è un po' perso è anche dire poco. Mentre gli album degli anni 70 sicuramente molto interessanti, anche fino agli anni 80 ha continuato a fare delle cose indubbiamente ancora con un certo valore, ma uno dei dischi più belli sicuramente è quello che andremo a presentare stasera, Sei Note in Logica, uscito nel 1979. Qui Roberto Cacciapaglia esprime tutta la sua maestria, la sua capacità nella costruzione di queste elaborazioni e composizioni minimaliste, anche piuttosto originali, anche abbastanza personali. Ce ne andiamo a sentire una traccia dallo splendido lavoro di Sei Note in Logica. Buon ascolto con 451 Intersezioni, Italia Minimale 70. Thank you.

È chiaro che questo brano, almeno per coloro che sono appassionati di minimalismo, è fortemente tributario, potremmo dire così, rispetto a Steve Reich, moltissimi richiami, rimandi anche nel suono e oltre che nella struttura compositiva e nell'idea minimalista, fortissimi rimandi alle composizioni straordinarie come Music for 18 Musicians o altre opere fantastiche del grande Steve Reich, che ha attraversato gli anni 60-70 con il suo minimalismo assolutamente originale. E da Roberto Cacciapalla, da Sei Note in Logica, 1979, rimaniamo tendenzialmente in quegli anni, ma ci addentriamo dentro, scusate il gioco di parole, all'interno di un'etichetta assolutamente seminale per gli anni 70, per la sperimentazione, per la ricerca sonora, per le avanguardie, anche perché era strettamente connessa al movimento rivoluzionario antagonista degli anni 70, fortemente schierata come etichetta, e basta ricordare che uno dei gruppi di punta erano gli Aria, che sicuramente non si ponevano problemi a dimostrare la loro vicinanza politica e la loro affinità e completa adesione rispetto a tutta l'area del movimento antagonista degli anni 70, a cui noi chiaramente di 451 ci riferiamo e ci collochiamo anche come area politica. E si tratta della Cramps, e trattiamo subito, diciamo, un trittico di album legati appunto alla Cramps Records, iniziando con due grandi musicisti, due grandi autori, Raul Lovisoni e Francesco Messina, da un disco splendido, Prati Bagnati del Monte Analogo, uscito nel 1978 appunto per la Cramps Record. È una cosa importante da ricordare, l'avevamo citato all'inizio, il produttore, oltre al grande Gianni Sassi che era il direttore e diciamo artistico di tutte le etichette, portava avanti il suo discorso legato alle avanguardie, alle sperimentazioni, c'è anche proprio Franco Battiato, che comunque aveva già iniziato praticamente il suo nuovo percorso musicale legato a questa forma di pop sperimentale, con venature assolutamente uniche, anche abbastanza peculiari, importanti rispetto alla fine degli anni 70 e inizio anni 80. Ricordiamo dischi come L'era del cinghiale bianco, uno dei primissimi album che aprivano una nuova fase di Franco Battiato, ed è proprio tra il 78 e il 79 che iniziò il percorso di Battiato, del nuovo, del secondo Battiato dopo il periodo minimalista. Comunque produce questo album, che è un disco sicuramente da riascoltare, perché rimane fortemente intriso di un minimalismo però assolutamente particolare, legato a delle forme pianistiche e strutturali abbastanza originali e appunto legate anche alle estrazioni musicali, alle provenienze musicali di Raul Lovisoni e Francesco Messina. Lavorano fondamentalmente su piano acustico, scusate, sull'arpa, su percussioni, ma anche utilizzando voci e parti corali, oltre che strumenti che noi amiamo moltissimo, proprio figli degli anni 60-70, come il vocoder Moog, il synth vocoder Roland, il synth EMS. Ce ne andiamo a sentire dunque da questo disco, e andiamo ad ascoltare la traccia 2, Ula Om, dove sentiremo una straordinaria arpa che si interseca nella composizione minimalista di Lovisoni e Messina. Buon ascolto. E siamo ritornati in diretta dopo aver ascoltato questo vero e proprio percorso sonoro minimalista con un'arpa fantastica, un'attenzione soprattutto anche al suono estremamente accurata da parte di questi due compositori. Ricordiamo ancora Raul Visoni e Francesco Messina, che oltretutto fanno uscire questo disco nel 1978, Prati Bagnati del Monte Analogo, con la particolarità che Lovisoni soprattutto studiava in quegli anni, non era ancora laureato, ma studiava al Dams di Bologna, dunque stando pienamente dentro oltretutto uno dei centri vitali, pulsanti del movimento antagonista degli anni 70. Insomma, un anno prima c'era stato il 1977, i fatti di marzo e non solo, e le varie iniziative politiche dell'estrema sinistra a Bologna e non solo a Bologna. Raul Lovisoni dunque insieme a Francesco Messina in questo splendido lavoro Prati Bagnati del Monte Analogo. E adesso andiamo a presentare invece un autore che, a differenza di questi ultimi cresciuti e nati diciamo proprio musicalmente nel percorso del movimento anni 70, andiamo invece a trovare un autore che in realtà è arrivato agli anni 70 ma già con una grande popolarità, almeno nell'ambito accademico e sperimentale, essendo stato essendosi diplomato al Conservatorio di Milano e avendo studiato come direttore d'orchestra e avendo soprattutto studiato negli anni 60 come vero e proprio figlioccio di Carlisle Stockhausen, Pierre Boulez e Maurizio Kagel, dunque insomma tre nomi piuttosto importanti. Successivamente continuano le sue composizioni in ambito legate alla musica contemporanea, si avvicina sempre di più in realtà, pur avendo avuto delle scuole piuttosto differenti e distanti dal minimalismo, lo stesso Stockhausen o Boulez, ma alla fine del 60 si avvicina al movimento minimalista anche italiano e soprattutto diciamo molti l'hanno etichettato come un vero e proprio compositore musicista dadaista, anche se lo stesso autore spesso ha rifiutato ogni tipo di etichetta, sia che potesse essere minimalista, sia che potesse essere un seguace di Stockhausen, sia che venisse definito come dadaista. Ma in realtà quest'autore ha spaziato e continua comunque ancora a elaborare progettualità compositive importanti, pur essendo insomma anche ormai di una certa età, essendo nato nel 1930. Andiamoci ad ascoltare di questo autore che ancora non vi ho nominato. Si tratta di Paolo Castaldi, che fa uscire un suo album per la Cramps proprio nel 1975. L'album è Finale 1971-1973. Lui si può collocare dentro diciamo una corrente minimalista molto più legata all'aspetto classicista o post classico, dunque l'approccio è sicuramente diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato fino ad ora. Sentiremo una composizione pianistica tratta appunto da questo album, per darvi un'ulteriore idea di un altro, diciamo, versante, un'altra diramazione del minimalismo italiano. Paolo Castaldi, Finale. Buon ascolto. E siamo ritornati in diretta dopo questa composizione assolutamente intensa da parte di Paolo Castaldi. L'album è finale 1971-1973, uscito per la Cramps Record nel 75. Importante ricordare, anche perché ci sono dei piccoli momenti di forti richiami chegiani, che lo stesso Paolo Castaldi negli ultimi anni, proprio tra gli anni, a fine degli anni 60 e inizio anni 70, si era molto avvicinato ed era stato estremamente affascinato dalle composizioni, del modo di suonare soprattutto il pianoforte di John Cage, per cui alcuni elementi sicuramente si ritrovano di certe dimensioni chegiane. Che già Cage, che oltretutto, ricordiamolo, è stato anche prodotto per la Cramps Record proprio negli anni 70, negli anni in cui stasera stiamo trattando. E un altro grande amante, nonché seguace, collaboratore oltretutto, perché ha realizzato anche qualcosa insieme a John Cage, parliamo invece adesso, proprio come ultimo autore di questa serata dedicata al minimalismo italiano degli anni 70, di Walter Marchetti, che è uno dei pochi rispetto a questi quattro che ha continuato a produrre fino a questi ultimi anni, portando avanti, diciamo, la traccia sperimentale, la traccia di ricerca sonora che era stata attraversata con la Cramps Record negli anni 70, mentre gli altri un po' si sono persi, un po' hanno cambiato direzione, qualcuno è ritornato più nella dimensione più squisitamente classica, come lo stesso Castaldi, e altri come Lovisoni e Messina hanno fatto altro, non hanno fatto solo musica, e Cacciapaglia invece si è buttato in varie sperimentazioni, artifici che lo hanno portato fino ad oggi a fare di tutto di più. Non voglio entrare troppo nel merito, perché le cose sicuramente non mi appassionano, soprattutto di questi ultimi 20 anni di Cacciapaglia. Ma per chiudere andiamo a trovare appunto Walter Marchetti da un album particolarmente tralasciato da molti critici, ma in realtà molto molto avanti negli anni. Siamo nel 1977, dunque un anno assolutamente fatidico per noi compagni, e lui esce il disco per la Cramps In Terram Utopicam, che è un disco veramente molto molto strano rispetto anche alle stesse produzioni della Cramps Record. Lo stesso Marchetti sta dentro una ricerca sperimentale a tutto campo, ma in questo disco c'è un approccio minimale, ma con un timbro sonoro estremamente rumorista, che addirittura sembra anticipare una certa industriale che poi si svilupperà tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, soprattutto in Europa, ed è un vero e proprio flusso ripetuto, martellante, anche inquietante, sonoro, che realizza Marchetti soprattutto nella traccia che andremo a sentire per chiudere la puntata di stasera. Dunque abbiamo fatto una sorta di piccolo excursus nella storia del minimalismo italiano degli anni 70. Sicuramente questa puntata troverà qualche altra qualche altro capitolo nel proseguo di 451 intersezioni di questa stagione o della prossima, poi si vedrà cosa succederà col progetto 451. Comunque abbiamo cercato di portare, diciamo, di dare qualche piccola pillola sonora che possa dare anche uno stimolo a ricercare degli autori, di musicisti e degli album, e soprattutto un'etichetta così importante come la Cramps Record, che secondo me potrebbe anche servire a rinverdire qualche aspetto legato alla creatività e alla fantasia. Andiamoci a sentire dunque, per chiudere la puntata di stasera, Walter Marchetti da In Terram Utopicam, uscito sempre per la Cramps Records. E vi ricordo chiaramente che 451 intersezioni non andrà in onda lunedì prossimo, essendo proprio Pasquetta, dunque ci evitiamo questo momento, ma rientrerà ovviamente in trasmissione il lunedì successivo, che dovrebbe essere il 13 di aprile. Dunque ci ritroveremo qua il 13 aprile, sempre dalle 20 alle 21. Io vi lascio con Walter Marchetti, vi auguro una buona serata.